America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Vorrei dedicare questa puntata al rischio, problema di violenza domestica e di altro genere su bambini negli Stati Uniti. La cifra è allarmante. Le statistiche ci dicono che potenzialmente 3 milioni di bambini all'anno possono essere esposti a qualche forma di violenza più o meno seria. Ecco, il problema dunque, vi dicevo, è endemico. Tempo fa vi preannunciai, alcuni mesi fa, in un'intervista con Ernesto Caffo, il fondatore di Telefono Azzurro in Italia, che ci sarebbe stato un progetto per estendere, per lanciare Telefono Azzurro anche qui negli Stati Uniti d'America. Caffo ha lavorato a lungo con un suo collega americano che si chiama Harold Koplevitz e vi preannunciai che ci sarebbe stata una raccolta di fondi. Qui la filantropia americana, devo dire, è potentissima. Quando si mobilita riesce a mobilitare milioni di dollari. L'obiettivo era di raccogliere 5 milioni di dollari. Questi 5 milioni di dollari sono stati raccolti. Il telefono azzurro americano si chiamerà quasi certamente Kids Online. Il ruolo di Ernesto Caffo in questo contesto sarà quello di essere parte del nucleo di gestione internazionale. Abbiamo con noi i microfoni di America 24, in studio con noi il professor Ernesto Caffo, fondatore di Telefono Azzurro, professore di neuropsichiatria infantile all'Università di Modena. Professor Caffo, quanto è importante sensibilizzare l'Italia e portare avanti questa battaglia per cercare di rendere la filantropia più presente in Italia? È molto importante perché da una parte permette al no profit di crescere anche sul piano della qualità, perché i progetti sono quelli che vengono finanziati, sono progetti trasparenti, c'è un'attenzione ai bilanci, c'è un'attenzione a tutto quello che viene fatto con i fondi raccolti, c'è una capacità anche di competere tra associazioni per avere migliori progetti. D'altra parte crea anche nel mondo delle imprese, anche nel mondo dei singoli cittadini che vogliono donare, il senso di essere più attenti a guardare quello che sono i diversi progetti, che i diversi progetti raggiungono, e questo vuol dire anche un rapporto più stretto tra il donatore e colui che in qualche modo si impegna sul piano sociale. E credo che questo aspetto della detrazione fiscale sia un aspetto importante, ma non è l'unico. Credo che c'è una cultura dell'impegno sociale in America che non c'è nel nostro paese. Ecco, non c'è nel nostro paese e forse c'è di più in altri paesi, perché so che ci sono riunioni, organizzazioni anche internazionali in cui ci si ritrova e spesso gli italiani non ci sono. Perché secondo lei? È vero? Mi può fare un esempio? Ma sicuramente il mondo anglosassone ha maturato competenze in questi anni particolarmente avanzate in questo settore. E negli incontri che vengono fatti oggi dai grandi donatori, dai filantropi che hanno investito milioni di dollari nel caso sociale, manca purtroppo la componente italiana e manca anche la componente di quei paesi come del Mediterraneo, quindi la Grecia, ma anche in parte la Spagna. Mancano quei paesi che non hanno maturato questa competenza nel creare questa sensibilità sociale rivolta anche alle aziende, alle imprese e a un mondo di impresa che in qualche modo si impegna anche a dare una risposta alla comunità in cui vive, e questo sempre, secondo me, è un aspetto che va sicuramente affrontato nei prossimi anni anche in questi paesi. Ecco, lei mi raccontava prima di un incontro in Svizzera dove c'erano Bill Gates, Warren Buffett, che hanno donato gran parte delle loro fortune a cause filantropiche, e dove c'erano personaggi internazionali, tra cui, se non sbaglio, c'era un personaggio, un finanziere turco, ma non c'era neanche un italiano, e questo signore era sorpreso: ma come mai non ci sono gli italiani? È vero? Ci può raccontare questa storia? Ma sicuramente, devo dire, al vedere un grande finanziere turco che segnala proprio di un paese che non fa parte ancora dell'Europa, che uno dei paesi invece più avanzati in Europa non è presente, dà il senso di una grande carenza nostra di sensibilità e di presenza. C'erano però tutti i colleghi suoi, di questi imprenditori americani, i russi, c'erano anche dei cinesi, c'erano quindi grandi gruppi di imprese, ma mancava l'impresa italiana, ed è un'impresa italiana che forse non è ancora all'altezza un confronto su queste tematiche, invece ritengo essere fondamentale, perché un impegno sociale vuol dire anche costruire strategie ed interventi per la comunità a lungo termine, e questo a mio avviso è l'impegno che le imprese devono avere. Ecco, perché secondo lei non c'è questa cultura? Lei diceva non è soltanto una questione fiscale, è una questione culturale, perché? Ma perché da una parte nel nostro paese si dona molte volte sulla base dell'emozione, sulla base di contatti personali, ma anche una capacità di capire dove e come investire nel migliore modo possibile. Manca una cultura di impresa sociale nel nostro paese, quindi ad esempio anche il no profit italiano non ha ancora bilanci sociali certificati, non ha la capacità di presentarsi all'esterno per quello che fa realmente, e molte volte la gran parte delle donazioni avvengono attraverso sistemi che sono sistemi di una vecchia cultura. Cioè io credo che ad esempio il sistema che tutto rappresenta il nostro paese, degli SMS, dei Teleton, sono sicuramente sistemi che hanno una funzione ma relativa. Ormai in America questo sistema è stato superato, dobbiamo invece avere grandi finanziamenti su grandi progetti con una trasparenza maggiore del finanziamento. Se dovessimo lanciare un appello, a chi lo lanciamo? Al ministro Tremonti, per esempio, per cominciare a dare delle agevolazioni fiscali? Lei avrebbe un'idea, una proposta che vuole fare ai nostri microfoni? Ma la prima cosa è che il ministro Tremonti deve stabilizzare il 5 per 1000, che è già un fatto importante nel nostro paese, un primo passo in questa direzione. D'altra parte è facilitare la defiscalizzazione delle donazioni, soprattutto su progetti importanti e anche su filoni che possono essere decisi anche dal governo, di priorità che devono essere in qualche modo svolte su certe aree del paese, su certe altre tematiche importanti per le nostre cause sociali. L'altro aspetto è far sì che il mondo dell'impresa italiano su questo tema rifletta, si prepari e crei anche una classe dirigente sensibile su questi temi. Quando partirà, come partirà Telefono Azzurro in America? Come investirete questi 5 milioni di dollari che avete raccolto in una serata? Ma il progetto è molto articolato, nel senso che c'è già una serie di attività che vengono svolte da parte dei colleghi americani proprio per creare questa infrastruttura di base. Ci sarà poi di fatto l'apertura della sede che avverrà nel mese di aprile e poi dopo tutti gli altri passaggi. C'è una serie di riflessioni che dobbiamo fare sul tema nostro dell'accesso dei bambini a servizio. Noi stiamo andando verso una dimensione sempre più legata a internet, quindi un accesso diretto alle nuove tecnologie, quindi questo sarà un percorso che faremo nei prossimi mesi e che spero potrà dare delle risposte operative nell'autunno prossimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Aretha Franklin si è ripresa dalla malattia che l'aveva costretta ad annullare una serie di concerti. Ricordiamolo, la grandissima, grandissima Aretha Franklin. E dunque lo scorso anno ne aveva cancellati molti ed ha annunciato il suo ritorno sul palcoscenico a maggio. Ci sembra giusto dedicare a lei una sua canzone di Aretha Franklin, Think. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.